picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. La puntata 37 di Picchi di Frequenza, dopo le consuete news della settimana, ci accompagna a fare conoscenza con Antonietta, rifugista del JAF. Ci porta nuovamente a incontrare i ragazzi di Boschiglia che ci parlano del loro nuovo progetto Ragnatele, e poi abbiamo un editoriale a cura di Luca Trada. Le segnalazioni di questa settimana sono tre. Andiamo a incominciare con un po' di storia, perché spesso quando si parla di tragedie di dighe il ricordo, la mente corre rapidamente al Vajont, ma il Vajont non è l'unico esempio. Ce n'è uno di una trentina d'anni precedenti, e su montagna.tv trovate una bella segnalazione in occasione dell'uscita di un libro per non dimenticare la tragedia della diga di Molare del 1935. È un documento storico fornito di immagini, corredato di racconti, ma anche un qualcosa che può andare bene per gli escursionisti, per gli amanti della natura, dell'archeologia industriale, dei sentieri, insomma della riscoperta della diga secondaria di Sella Zerbino. Insomma è qualcosa che difficilmente molti ascoltatori conosceranno, quindi dateci un occhio a cura della redazione di montagna.tv. Seconda segnalazione, ci spostiamo in questo caso su planetmountain.com. Le cose da dire sarebbero parecchie. Riapre dopo diverse stagioni il rifugio Antermoia, chiude per lavori di ristrutturazione il Prospero Marchetti, è aperta una nuova ferrata, la ferrata delle Aquile. Che cosa vi voglio raccontare? Vi voglio dire che su Planet Mountain, con il titolo Porte aperte in 146 rifugi del Trentino, si fa un riepilogo della stagione alle porte, appunto a partire dal 20 giugno, di riapertura stagionale di tutti i rifugi alpini della zona. Un'ultima segnalazione per cui ci spostiamo nuovamente è quella di Parco Vivo. Il programma lo trovate su Mountain Blog, ma non soltanto. Parco Vivo è una rassegna diffusa nel territorio e nella stagione estiva delle Alpi Orobie. Il programma lo trovate appunto ad esempio da Mountain Blog, con un interessante PDF tutto da sfogliare per i mesi di giugno, luglio e non soltanto. Un appuntamento insomma non comune per andare alla riscoperta delle Orobie. Buongiorno Antonietta, rifugista del rifugio JAF, un rifugio che si trova in Friuli, all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane. Si può raggiungere dal Passo della Mauria, ma anche da altre località, e quindi per prima cosa, come sempre quando incontriamo i nostri amici rifugisti, le diamo il benvenuto a Picchi di Frequenza e le chiediamo un po' di descriverci il vostro rifugio, la vostra storia e dove vi trovate. Va bene, grazie mille, grazie a te. Il rifugio si trova a 1400 metri di quota, questa è una quota che può sembrare bassa, ma in realtà in Friuli è già abbastanza in alto, e si trova in una radura in mezzo al bosco, però poco più su di noi già cominciamo a trovare i picchi, le tipiche zone di roccia delle Dolomiti, quindi siamo proprio alla fine del bosco e prima dell'ambiente veramente molto molto di alta quota. E noi Sì, abbiamo una lunga storia con i rifugi. Io e mio marito, che si chiama Dario, siamo qui da 6 anni, ma prima di arrivare al JAF abbiamo gestito per 5 anni prima e altri 3 dopo un piccolo rifugio sulle Alpi Carniche che si chiama Rifugio Grauzaria, dove portavamo tutto a spalla, quindi abbiamo una lunga esperienza di questo genere, insomma abbiamo visto anche cambiare molto il mondo dei rifugi. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Come è cambiato il mondo dei rifugi? Perché insomma anche il turismo di montagna è un turismo che sta cambiando e spesso i rifugisti, come dire, si trovano ad affrontare situazioni molto belle, molto affascinanti dal punto di vista del paesaggio e anche della vita che si fa nel rifugio, ma insomma non credo che sia tutto rose e fiori per voi. Eh no, appunto, questo è uno dei problemi, la difficoltà di comunicazione delle... Sì, come rifugio visto dalla parte dei gestori, e credo che si potrebbe fare molto in questo senso, perché la vita del rifugista è davvero molto dura, cioè c'è poco di romantico, sono in piccoli momenti, ma in realtà appunto viste anche le sempre maggiori esigenze dei turisti, e anche giuste insomma, no? I rifugi così come sono adesso sono ben poco attrezzati per farne fronte in modo veramente, diciamo, per essere all'altezza delle situazioni. Quindi noi abbiamo visto nel corso degli anni, per la prima esperienza degli anni 80, un cambiamento radicale. Penso che il più grosso cambiamento sia nel fatto che le persone non sono disposte a dividere le camerate per dormire. Ecco, questo che negli anni 80 era normale, perché tutti, bene o male, insomma, la frequentazione era di quasi solo maschile, di persone che avevano fatto il servizio militare, abituati un po' a vivere in comunità. Adesso questo non esiste più, questo è il principale problema. E l'altro problema è che così tutti i rifugi non hanno un buon rifornimento di energia elettrica. Anche noi, che pur siamo abbastanza fortunati, dobbiamo fare salti mortali e quindi non possiamo dare quei comfort che ormai sono per tutti una cosa scontata, cioè nessuno ci pensa un attimo a dove è l'energia, che nelle nostre case abbiamo di tutto. E noi lassù non abbiamo neanche 3 kilowatt e con questo dobbiamo affrontare tutto. Certo, beh, forse andrebbe un po' recuperata però una dimensione un po' più semplice anche della vita in rifugio, insomma non ci si può aspettare, noi l'abbiamo detto anche altre volte con altri rifugisti, non ci si può aspettare un albergo 5 stelle quando si sale in montagna, bisognerebbe forse ritrovare un po' questa dimensione. Purtroppo, come dici giustamente tu, il turismo cambia e spesso magari ci si trova ad avere a che fare con persone che appunto hanno richieste che vanno un po' oltre quello che sarebbe utile e necessario anche per la montagna. Ma per tornare invece al vostro impegno, alla vostra gestione del rifugio, che giri si possono fare a partire dal rifugio JAF? Io ci sono stato anni fa, ricordo un territorio veramente stupendo con dei boschi di faggi verdissimi e molto belli, ma anche delle salite molto impegnative. Io con alcuni amici racconto sempre che le salite più difficili le ho fatte in Val d'Aosta, perché vabbè, alcune sono molto impegnative, ma anche in Friuli, perché il territorio franoso, il territorio nonostante le cime non siano alte, si passa ad una verticalità molto impegnativa davvero in poco tempo. E quindi insomma, se ci racconti qualcosina può essere utile. Sì, certamente. Beh, guarda, il nostro Fiore all'Occhiello è un giro di 4 giorni con tappa ogni sera in un rifugio diverso. Questo noi abbiamo chiamato l'anello delle Dolomiti Friulane e porta a vedere veramente tutti gli aspetti di questo parco, che è una zona veramente selvaggia, e quindi non posso che caldeggiare queste, così uno vuole vedere in poco tempo veramente tutti questi aspetti. E come ho detto prima, basta salire 200 metri oltre al rifugio che siamo già in un ambiente prettamente dolomitico, e ci sono diverse cime che si possono scalare, purtroppo non sono molto frequentate, forse anche questa è una cosa da riscoprire. E c'è veramente, cioè, per tutti i gusti, anche per delle gite facili ovviamente. E poi vorremmo dire anche un'altra cosa: da un anno a questa parte abbiamo cercato di riportare un po' l'attenzione un itinerario che già esisteva, l'altra via di Forni di sopra, perché il punto base principale per arrivare da noi è il paese di Forni di sopra, nell'avvaltagliamento in Friuli, e sono altri 4 giorni di anello, stanno sempre in quota, anche qui dormendo in rifugio o in malga. E anche qui, diciamo, uno può vedere da tutte e due i versanti della valle con un panorama sempre diverso. Non so. Assolutamente, Cosa... sì, guarda, Sì. confermo per gli ascoltatori perché la Val Tagliamento è una valle veramente stupenda e insomma si godono paesaggi, come dici tu, molto selvaggi e per fortuna, alle volte anche forse non così tanto, ma insomma per chi cerca la montagna selvaggia ancora molto poco turistici, quindi insomma per chi vuole trovare una montagna ancora bella selvaggia, bella dura, però non per questo, come dire, non accogliente, sono sicuramente posti molto belli. Io prima di salutarti ti chiederei se ci lasci i contatti del vostro rifugio per gli ascoltatori che vorrebbero mettersi in contatto con voi, come scoprire anche il rifugio, se avete un profilo sui social network e poi magari vi verremo a trovare durante l'estate. Ecco, certamente abbiamo sia un sito web dedicato, www.rifugiojaf.it, abbiamo la pagina Facebook, sempre Rifugio JAF, e come numero di telefono abbiamo un fisso che purtroppo funziona in modo intermittente, sempre per i motivi prima, le difficoltà di cui parlavamo prima, e il telefono fisso è 0433 88002. Però storico di Forni, come si può notare, ne finisce in due, è il secondo numero di telefono della valle, però in questo momento non funziona, quindi bisogna ricorrere al cellulare che è 338-78-56338, ma tutti questi dati si trovano ovviamente online. E Perfetto, ma cosa che volevi sapere per ancora? voi la Sì. stagione è già cominciata, comincia questo weekend, non mi ricordo. Noi apriamo sì, questo weekend, diciamo così, per cominciare, ma in realtà la stagione comincia con il 15 di giugno e va fino al 15 settembre, e in questo periodo siamo su ovviamente sempre, ininterrottamente, e poi magari faremo qualche weekend ancora oltre il 15 settembre, questo da vedere, ecco. Perfetto, allora auguri per la stagione, a presto. Bene, grazie mille, Grazie a grazie voi. di tutto. Arrivederci. Nuovamente in collegamento con Boschiglia, siamo in collegamento con Andrea in realtà. Boschiglia è una delle trasmissioni, dei progetti di Radio al Suolo. Visto che non ne parliamo da un po' di tempo, ti chiedo Andrea anzitutto di introdurre brevemente Boschiglia, perché poi andiamo invece a parlare di Appennino e di paesi abbandonati lungo l'Appennino attraverso Ragnatele, ma appunto ci arriviamo col tempo. Anzitutto, beh, ti ringrazio di essere qui con noi e insomma, raccontaci qualcosa su Boschiglia e di cosa vi state occupando in questo momento? Certo, grazie a voi, ciao a tutte e tutti. Boschiglia nasce appunto come trasmissione di Radio al Sole, nasce fondamentalmente dall'esigenza di raccontare una serie di attraversamenti, una serie di camminate compiute in questi anni da un gruppo di ragazzi, siamo in quattro appunto che realizziamo questa trasmissione. Abbiamo sentito l'esigenza di iniziare a raccontare non tanto i nostri viaggi quanto i territori che attraversavamo. Da più punti di vista, da prospettive differenti, in base anche alle nostre differenti formazioni universitarie. Diciamo che sentiamo l'esigenza di non lasciare un semplice trekking l'attraversamento del territorio e quindi provare a raccontare la polifonia del territorio da più punti di vista. E la radio è stato diciamo, un mezzo anche non ricercato, non direttamente ricercato, ma la prima forma che ci siamo diciamo, anche un po' ritrovati davanti, non, forse un po' originale per raccontare dei viaggi, mancandoci foto, video e appunto altri supporti, ma ci sembrava comunque molto, molto originale. Da l'esperienza della radio però è partita diciamo, la nascita di un piccolo progetto multimediale, infatti è in costruzione anche un blog che proverà a raccogliere sia appunto le nostre puntate, quindi contenuti audio di Boschiglia, ma anche degli articoli che stiamo scrivendo per delle riviste nel bolognese e una serie di video che stiamo realizzando in questo periodo. Un po' l'idea di questo blog che diventi una sorta di media appunto della montagna, ovviamente si spera il più allargato possibile, gestito da più esperienze, realtà o singoli possibili, a partire appunto da queste attraversamenti e questi racconti che spesso sono delle vere e proprie ricerche, piccole ricerche indipendenti sul territorio. È partito il progetto di Ragnatele, che ha vinto appunto è tra le menzioni speciali del progetto del bando Fuori Rotta, che finanzia viaggi non convenzionali e alla conoscenza del territorio e dell'esperienza del contatto con l'altro, diciamo. E Boschiglia appunto ha proposto questo progetto che si chiama Ragnatele, che ha intenzione di attraversare l'Appennino, dall'Appennino Tosco-Romagnolo fino alla Sila Calabrese, seguendo il filo conduttore dei paesi abbandonati. Questa traccia di ricerca è un progetto a cui stavamo lavorando da un po'. Pensiamo infatti che i paesi abbandonati possono raccontarci tanto rispetto a un passato immediato del territorio italiano da più punti di vista, quindi alla gestione del territorio, alla devastazione, quindi alle politiche che sono state adottate nei territori, ma anche a storie appunto di migrazione, anche di guerra e di sfruttamento. L'idea è quindi quella attraverso un attraversamento lento, attento, consapevole, che ha caratterizzato i nostri viaggi a piedi, è quello di entrare a contatto con le comunità prossime ai borghi abbandonati o in fase di abbandono e provare a far riemergere quelle storie passate o comunque delle storie minori su quel territorio che hanno a che vedere con le varie prospettive di cui accennavo prima. Il progetto si chiama proprio Ragnatele perché l'idea che abbiamo di ragnatela è un po' diversa dalla ragnatela associata al passato, inteso come appunto tempo morto e tempo abbandonato, ma è una ragnatela che appunto intreccia storie, intreccia comunità, intreccia dei percorsi, dei sentieri. Ripartiamo un secondo dalla mail che precede questa chiacchierata, perché insomma si parla di attraversare dei territori, dei borghi abbandonati dall'Emilia Romagna alla Calabria, che anzitutto è tanta strada, delle ragnatele, del suo significato così sociale, sociostorico abbiamo accennato, però ti chiedo anche di farci qualche esempio. Quello che vorremmo capire è anzitutto se parliamo di spazi del tutto abbandonati o appunto prima accennavi in via di abbandono, e d'altra parte se potevi raccontarci, insomma, così presentarci un paio di luoghi che magari fra i molti che vorreste conoscere avete individuato come interessanti e perché. Certo, allora il percorso si va dall'Emilia Romagna alla Sila Calabrese. In realtà anche nel progetto stesso che abbiamo presentato a Fuori Rotta ci sono tre parti, tre grosse tappe che abbiamo evidenziato, che abbiamo proposto di attraversare via bus, perché appunto si parla di quasi 800 chilometri, mentre probabilmente a piedi ne faremo tra i 500 e i 600 chilometri. Abbiamo già effettuato uno esperimento, noi siamo sempre stati comunque affascinati da questi paesini, diciamo, abbandonati, perché secondo noi raccontavano tanto della relazione tra uomo e territorio che aveva contraddistinto l'Appennino negli ultimi anni. Un esperimento è stato a Brentosanico, tra appunto l'Appennino Tosco Emiliano, un paese appunto nella provincia di Firenzuola, in cui siamo andati a incontrare le comunità dei paesini che spesso nascono immediatamente prossime ai paesi abbandonati, magari con un nome nuovo, no? Il classico, appunto, mantengono la stessa toponomastica, però il borgo, appunto, un borgo nuovo che nasce spesso a fianco al borgo abbandonato, ma spesso in realtà nasce già morto, come dice Vito Tesi, che è uno dei massimi esperti dei paesi abbandonati, soprattutto nella Calabria. E quindi un po' abbiamo provato a fare questo esperimento, abbiamo incontrato, siamo andati lì davvero con una telecamera molto, diciamo, in maniera anche non poco invadente probabilmente, però siamo andati appunto nei bar, siamo andati a incontrare le persone nelle piazze, abbiamo iniziato un po' a raccogliere un po' di interviste, e appunto qualcuno è stato molto contento di poter raccontare la storia del proprio territorio, e infatti abbiamo realizzato anche un video, un piccolo trailer che a breve uscirà anche sul sito di Fuori Rotta, ma si può vedere appunto anche sui nostri profili Facebook, sulla pagina Ragnatele. La differenza tra paese abbandonato e paese in stato di abbandono, proprio per l'esistenza di questi paesi nuovi, ma che già nascono, diciamo, segnati dallo stato di abbandono, spesso non c'è differenza. Quindi alcuni dei paesini che andremo a incontrare, specialmente in Abruzzo, dove sono pieni nella provincia di Teramo, nella provincia di Aquila, spesso parliamo di comunità in cui resistono ancora pochissimi abitanti, pochissime decine o anche meno, 4-5 abitanti, e ci sembrava anche molto curioso andare a incontrare per sapere quali erano le motivazioni che spingeva questa gente ancora a resistere in quel territorio, a rimanere lì o comunque a scoprire più storie possibili. I territori che attraverseremo saranno principalmente appunto l'Appennino tosco emiliano, quello tosco romagnolo, fino ad arrivare nelle Marche. Scenderemo poi da lì con un piccolo tratto di autobus verso l'Abruzzo, e l'Abruzzo ce lo attraverseremo tutto, da appunto la provincia dell'Aquila fino alla provincia di Teramo, superando il Gran Sasso, e una piccola porzione anche del Lazio, gran parte della Campania, soprattutto il Cilento e il Salernitano, e poi da lì riscenderemo in autobus per la Basilicata e l'ultima parte della Calabria, verso la Sila Calabrese. Da questo punto di vista sicuramente l'Abruzzo e la Calabria sono i due territori più interessanti, anche più, diciamo, pieni di queste storie, di questi esempi di paesi abbandonati. Ecco, ho capito quasi tutto, però una domanda te la devo fare: quando si parte? Allora, purtroppo forse questo è il dettaglio più spiacevole, almeno per noi, perché per varie appunto il progetto prevederà anche la realizzazione di un video documentario ed una piccola guida escursionistica. Due di noi stanno lavorando anche alla loro tesi di specialistica che coinvolge questo progetto qui, quindi abbiamo dei tempi un po' stretti. Partiremo i primissimi di agosto, e diciamo che agosto in Appennino, soprattutto nelle quote medio-basse, non è il periodo migliore per partire, però sì, partiremo i primissimi di agosto e pensiamo di arrivare in Calabria appunto i primi di settembre, quindi saranno tra i 30 e i 40 giorni di viaggio. Perfetto, dunque io anzitutto ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Questa volta, visto che ce lo siamo già ripromessi in passato, magari anche in occasione del viaggio ci si potrebbe così risentire per qualche collegamento, insomma, meno di spiegazione, più, insomma, impresa diretta della vostra, molto esperienza. Volentieri. Ti chiedo di ricordare un attimo dove è possibile seguire il progetto, anche perché Fuori Rotta, peraltro, recentemente, ormai qualche mese fa, si pensava di partecipare con un amico, poi, come spesso accade facendo troppe cose, mi ero completamente dimenticato di questo bando, e vedere, insomma, che ha approfittato qualcuno di vicino e di amico fa sempre piacere. Quindi ancora due riferimenti e poi niente, ci salutiamo. Va bene, sì, il progetto Fuori Rotta si può trovare su www.fuorirotta.org, è presente una pagina crowdfunding in cui si possono appunto finanziare, sostenere e seguire i 10 progetti vincitori e i 12 progetti di menzione speciale. Li troverete appunto anche il focus su Ragnatele, un viaggio a piedi fra i paesi abbandonati dell'Appennino, e se volete potete seguire appunto sia il profilo Facebook, la pagina Facebook di Ragnatele, la trovate così, e la nostra pagina Facebook di Boschiglia, che è Boschiglia il suono del tuo passo, e seguire comunque le puntate di Boschiglia su www.radioalsuolo.org. Perfetto, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao a tutti. Una notizia apparsa sul quotidiano La Repubblica di questa settimana che parlava delle comunità montane ci ha destato curiosità. In quell'articolo si faceva vedere come ormai il termine comunità montana non sia più un ambito di territorio amministrativo con cui andare a sostenere le condizioni economiche, sociali e culturali del vivere tra i monti, sia nella zona alpina che quella appenninica, ma ormai è diventato uno dei tanti modi con cui il sistema clientelare e di potere con cui ormai si è consolidata la nostra Repubblica spartisce, gestisce e spreca denaro pubblico. Dico questo, cito questo perché quando si parla di montagna sui nostri quotidiani lo si fa spesso e ahimè sempre quasi in modo equivoco, appunto, o per citarne sprechi o per gridare alla montagna assassina quando inutilmente e fuori luogo peraltro, quando qualche alpinista o qualche scialpinista resta coinvolto in incidenti e tragedie in montagna. Raramente si parla della montagna per quello che è, per l'equilibrio sempre più delicato che anche i cambiamenti climatici contribuiscono a rendere tale. Ricordo negli ultimi anni i frequenti crolli che ci sono stati non solo nelle zone dolomitiche e dopo questo inverno e questa anche primavera pazza che stiamo vivendo, la domanda sarà come vivranno i nostri mass media la prossima estate, come ci racconteranno la montagna. Ecco, temiamo ancora nel solito modo, parlando di montagna assassina, parlando di montagna solo come momento dove andare a consumare soldi e consumare anche territori a volte, ahimè. Ci piacerebbe ogni tanto che della montagna si parlasse in modo diverso, come proviamo a fare da queste libere frequenze, e quindi che anche le comunità montane tornino a essere quelle che dovevano essere inizialmente, dovrebbero essere degli ambiti anche di autogoverno e autogestione delle risorse pubbliche in territori spesso anche lontani e difficilmente raggiungibili per gli stessi abitanti. Quindi raccontiamo una montagna diversa e invitiamo gli ascoltatori a diffondere questo messaggio. La montagna non è assassina, la montagna non è una macca da mungere, la montagna è un luogo stupendo da vivere in pace, in solidarietà, in serenità, in anarchia, ma soprattutto con la voglia di divertirsi e godersi ambienti incontaminati. Anche questa puntata della numero 37 di Picchi di Frequenza volge al termine. Vi ringrazio per essere stati con noi. Come di consueto vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, quello che vi pare. Anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. L'idea, come di consueto, è di sentirci ogni settimana in modulazione di frequenza, ma di rendere anche disponibile l'archivio online pubblico di tutte le puntate precedenti, potendo scegliere quello che vi interessa, quello che vi solletica, quello che vi incuriosisce. Vi ringrazio per essere stati con noi. Noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.